Friuli nel mondo. Una nazione amica in cui vivono milioni di italiani, in perfetta armonia di intenti e di opere con i nativi, come attesta il mistico comune raccoglimento della festa che voi, emigrati di ogni regione d'Italia, in ogni stato e in ogni provincia del Nord America, state vivendo sul mare. Partiti dalla poesia dell'albero che il Natale simboleggia, vi accingete a pregare davanti al presepe, figliato dalla santità di Francesco d'Assisi. Due modi ugualmente gentili di solennizzare la natività del Signore e ugualmente benefici, poiché al di là come al di qua del gran mare la umana solidarietà è piena in quel giorno. Nessun desco senza il conforto di un buon cibo, nessun bimbo senza un dono atteso. A tutti, anzi, un dono dalle persone più care. Suggello all'invito del messaggio evangelico che vuole la pace tra gli uomini di buona volontà. Mare gonfio intorno alla nave di Natale. In ritmico accavallarsi, le onde si infrangono contro la sua prua e i suoi fianchi, schiumeggiando. Sottolineano la celebrazione della messa dopo una serata natalizia intensamente goduta. Una messa che ha il privilegio di una nobile cornice, del coro polifonico dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, diretto dal maestro Bonaventura Somma, reduce da una tournée di 60 concerti nel Nord America. Di un coro che si può ben definire messaggero spirituale dell'Italia in mezzo al popolo più musicale del mondo. La misura del successo riportato va quindi rapportata su una scala più alta, a maggior merito del complesso composto di 32 voci maschili e femminili. L'Adoramus Te Christe del Palestrina, mottetto a quattro voci dispari, inizia la sacra funzione nel maggior salone della turbonave la mattina di domenica 18 dicembre. Ogni momento saliente della messa, un mottetto diverso, quasi incenso che sfiora l'altare e che spicca sullo sfondo rosso scuro di un grande damasco. All'opposto lato della sala stipata di fedeli, lo Stato Maggiore al completo, il commissario del governo, personalità straniere, la bronzea figura del capitano genovese che dà il nome alla nave, Andrea Doria. Ave Maria del Victoria all'offertorio, mottetto a quattro voci dispari. Pregano tutti. Gente di colore, personale di bordo, emigrati di ogni regione, dalla Sicilia al Friuli. I friulani, una quarantina, quasi tutti provenienti dal Canada, dove la stagione rigida favorisce le loro vacanze. Veneti, calabresi, toscani, accomunati nella fede così nobilmente espressa. Benedictus del Perosi tessa lo sfondo armonioso al passo omonimo. L'Ave Verum di Mozart segue alla elevazione e alla comunione, accompagnate da un mottetto a cinque voci dispari di Bonaventura Somma, compositore ispirato, oltre che direttore del coro. Nelle pause, il rombo incessante dell'oceano, confuso alla voce dell'officiante, alle parole del cappellano di bordo che sottolineano il significato del Natale cristiano. A chiusura della messa dedicata agli emigrati, la vigilia di Natale, tra le Azzorre e Lisbona, nell'aria la temperatura e la luminosità della primavera, l'Exultate Justi del Viadana, mottetto a quattro voci miste, la cui esecuzione, come le esecuzioni precedenti, spiega il fascino del complesso di Santa Cecilia negli Stati Uniti e nel Canada. L'ente Friuli nel mondo è lieto oggi di farvi ascoltare queste voci impareggiabili, e di inviarvi i più affettuosi auguri per l'anno nuovo.